utilizzo questo libro. Che è un'antologia di testi di Prusser, si chiama La fortuna dei media. Ed è edito da Bruno Mondadori. Wilhelm Prusser era perché è morto nel 1891. Era uno studioso del linguismo, non proprio un linguista, ma uno studioso, un esponente di cultural studies, uno studioso di linguaggio e di media, eccetera. Questo libretto è una antologia di saggi suoi, quindi è un libro che non esiste, non ha l'equivalente in tedesco, è stato costruito qua in Italia, però è un'ottima antologia, che mi fa una serie di cose molto belle. Ora, in uno di questi saggi, Flusser parla dei... Allora, lui usa il termine simboli, noi, io lo sostituisco con segni, perché non mi piace il simbolo, ma è quello che vi ho detto prima, però dice delle robe... Dice delle cose interessanti, perché dice che... Perché ci spiega come questa caratteristica mediale dell'uomo sia... Come dire... Noi la diamo per scontata, perché ovviamente la usiamo tutti i giorni, eccetera, però... Allora, siccome lui sta spiegando proprio che il ruolo dell'immagine cambia oggi rispetto a come era nel passato, allora dice che bisogna fare un escurso sul concetto di codice. Dice Flusser, un codice è un sistema di simboli, cioè di segni, dico io. Il suo scopo è rendere possibile la comunicazione interumana. I segni devono essere organizzati, devono avere un'organizzazione, deve essere stabilito il rapporto significante e significato all'interno del segno, e quindi... Gli uomini devono capirsi, allora, no, poiché i segni sono fenomeni che sostituiscono, cioè significano altri fenomeni, la comunicazione è un surrogato, sostituisce l'esperienza vissuta di ciò che in essa è inteso. Sostituisce l'esperienza vissuta, se io mi porto a vedere il bisonte di Lascaux, questa visione sostituisce l'incontro reale con il bisonte. Se io vi racconto le peregrinazioni di Omero quando di Ulisse quando torna da Troia e deve tornare ad Itaca, voi non siete con Ulisse, è la sostituzione, voi non fate l'esperienza reale del viaggio con Ulisse, ne fate un'esperienza mediata attraverso le parole. Quindi la comunicazione è un surrogato, sostituisce l'esperienza vissuta di ciò che... Gli uomini devono capirsi tramite codici, perché hanno perduto il contatto immediato con il significato dei segni. Questa frase è oscura un po', però... Devono capirsi tramite codici, cioè tramite segni sistematizzati. Vediamo di rileggerla. Perché hanno perduto il contatto immediato con il significato dei simboli o dei segni. Forse si riferisce ai gesti. Si riferisce probabilmente, allora, allude probabilmente ad una fase originaria di fondazione del segno, cioè in cui il rapporto significante e significato, quindi per esempio suono e immagine mentale, suono e comportamento, eccetera, nel momento in cui viene istituito, come dire, c'è una sorta di freschezza, il segno, c'è una primissima fase in cui il segno non è totalmente staccato dall'esperienza. È a partire dalla prima replica di quel segno che c'è il distacco dall'esperienza. La mitica prima volta, se c'è una prima volta, che può essere un periodo di tempo anche molto lungo, in cui, che ne so, la concatenazione di suoni cane corrisponde a un essere vivente con certe caratteristiche, molto probabilmente fa delle prime espressioni della parola cane una esperienza, dopo non lo è più. Dopo io dico cane e ci può non essere nessun cane in giro e quindi allora forse questo vuol dire, non lo so, però per me è poco chiaro. Sembra tantissimo lo stimolo pavloviano, no? Potrebbe essere, però Pavlo è una persona molto meccanicista, come tu sai, sì. Quindi non è. Allora, gli uomini devono capirsi tramite codice perché hanno perduto il contatto immediato con il significato dei segni. Come si dice? Tralasciando, cioè. passando sopra per un attimo all'oscurità di questa frase, quella dopo è più interessante. L'uomo è un animale straniato, tra virgolette, sembra carina, è un animale straniato. Deve creare dei segni, lui dice simboli, deve creare dei segni e ordinarli in codici, se vuole tentare di gettare un ponte sopra l'abisso che si spalanca tra sé e il mondo. Deve cercare di mediare, deve tentare di dare al mondo un significato. Quindi, nella prima esperienza mediale di base, che è quella del linguaggio, è già in gioco una operazione di significazione, cioè di attribuire al mondo un significato. Ovviamente questo significa che una concezione del genere esclude la concezione ingenua che il mondo abbia già un significato di per sé e che quindi l'operazione linguistica non debba fare altro che rintracciare al di fuori di noi un significato che c'è già. Non c'è nessun significato al di fuori di noi. C'è una quantità di dati, di esperienze, è il linguaggio, è l'instaurazione di un codice linguistico, di un sistema di segni che attribuisce, che fa questo accoppiamento tra significanti e significati. Quindi il significato è qualcosa che noi supponiamo che ci sia, ma non è automaticamente dato nel mondo, è una nostra dimensione. Però secondo me non ha finito la frase. Deve tentare di dare al mondo un significato. Punto. In rapporto a se stesso, direi. Che te ne frega se si chiama lavagna o... È quello che sto cercando di dire. No, ma lui lo intende, certo. È quello che stavo cercando, cioè commentando questa frase stavo cercando di dire esattamente questa cosa. Cioè, quindi l'utilizzo di un linguaggio ci convince che il significato non è una proprietà immutabile e assoluta del mondo. È una scelta umana, una scelta che fanno gli esseri umani. E questo ha una conseguenza però, e cioè che contro ogni ipotesi rigidamente universalista sul linguaggio, l'utilizzo di linguaggi differenti, di differenti lingue, quindi di differenti codici linguistici e comunicativi, può attribuire a avvenimenti, gesti, oggetti apparentemente uguali, può attribuirgli significati diversi. Non esiste un unico sistema di significati nel mondo. Ogni lingua è in qualche maniera un sistema non soltanto semiotico, cioè di segni, ma anche culturale, cioè di creazione di codici che dichiarano l'ammissibilità e la non ammissibilità di certi comportamenti. E questo insieme di codice può essere relativo, può essere in tutto o in parte, poco o molto, relativo allo strumento specifico che si usa, che si utilizza. Questa ipotesi in linguistica è nota come ipotesi di Sapir-Whorf, perché Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf furono separatamente i due linguisti che per primi la enunciarono. Wolf, che è il secondo, che era un linguista dilettante, era un grande luminare della linguistica americana dei primi decenni del Novecento. Wolf era uno molto più giovane di lui, che però essendo impiegato in un'agenzia americana per la gestione dei problemi dei nativi, ebbe modo di diverse lingue amerindie dei nativi, in particolare quella dei Hopi, delle tribù Hopi, e da questo, insomma, che pubblicò diversi articoli. E Worf fu quello che, ancora più del suo maestro Sapir, enunciò l'idea che ogni linguaggio si porta con sé un mondo, che ogni linguaggio porta con sé un modo diverso di vedere il mondo, quindi che l'accoppiamento, il processo di accoppiamento tra significanti e significati non è un processo neutro, né un processo che avviene su una base comune e poi variamente articolata, insomma il linguaggio, la scelta o, il destino di nascere in una o in un'altra comunità linguistica non è una cosa neutra, non è privo di effetti sulla nostra mentalità. Ogni cultura, e quindi per ogni cultura Worf intende ogni linguaggio, ogni lingua diciamo diversa, porta con sé sistemi di valori, ma proprio modi di vedere il mondo. Si vede il mondo in maniera diversa da come lui fa, gli esempi specifici che non devo fare, non mi ricordo io. Sono delle azioni semplicissime, espresse, che per un parlante inglese sono semplicissime, per un parlante hopi diventano complicatissime, hanno bisogno di modi di e forse sono anche incomprensibili, mentre molte cose che fa uno hopi e che per lui sono immediate e normali, per noi occidentali, per un inglese, per un inglese sono difficili da capire. Quindi è proprio un mondo, diciamo, diverso. Se volete la pausa ve la do.